mai quando c'è ancora luce che è scesa già la notte sopra casa tua. Ma ci sarà tempo perché arrivi il buio portando le sue ombre giù lungo la strada ed i suoi lampioni. Ed io conservo i colori per te sulla mia tela. La luce batte dove fiorisce la realtà. La luce parla ed ogni storia è unica. Io a passi lenti vado verso casa, forse chi mi vede dirà: ma guarda un po', quell'uomo solo che farà. E invece no, non sono solo perché ho te. E nei miei quadri dipingo l'amore. Perché io non temo la notte sulle mie tele. La luce batte dove fiorisce la realtà. La luce batte.